Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E questa è la situazione preferita da Vardi, che cerca la battuta. Mamma mia! Gol strepitoso di Gianni Vardi, è il 17° gol dell'anno. Attenzione a Vardi, che va in campo aperto, esce Mannone, Vardi! Il Leicester è in vantaggio, Jamie Vardi! Filmour, un gol pesantissimo, quando siamo al 22° del secondo tempo! Capisco che tutti quanti i giornalisti, no, vorrebbero che noi vincessimo il campionato, ma insomma non è che anche se avessimo vinto qua, sì, con tanti punti di vantaggio, ma i ragazzi è la prima volta che stanno lassù in alto, per cui bisogna anche vedere come reagiscono. Attenzione, palla rubata da Mahrez. Mahrez può rientrare sul sinistro. Mahrez! Riad Mahrez! L'ha sbloccata lui al 10° minuto di gioco. Prima palla gol. Non ha tremato il piede sinistro più importante di questo Leicester, quello di Mahrez. Schlupp dentro l'area, Schlupp alza la testa, cerca l'assist, ancora Schlupp che poi prolunga e poi Ushua la spinge in porta. Ushua, contropiede classico dell'Leicester, il marchio di fabbrica di questa squadra che ruba il pallone e poi va a fare gol. Sembra quello di fare delle partite come queste, lottare fino in fondo, poi alcune volte ti viene bene, tre volte ci è venuto male, la terza sconfitta in tantissime partite, per cui va bene. Drinkwater, morbido sul secondo palo, la tocca Morgan, Morgan, il tocco di Morgan, il pareggio dell'Leicester, il gol del capitano al secondo gol in questo campionato, di un'importanza incalcolabile. Amazing. Dream and reality. Grande copertina della premiata ditta. Top! De Luca, top. Ferronato, cioè Edoardo Lavezzani anche in relazione. Come avete sentito oggi, parterre de roi qui in studio. Sì, ma avete messo a capo tavola, non c'ho niente, c'ho manco internet qua. Però va bene. Pierluigi Pardo, c'è Giovanni Capuano. Infatti non ha internet e delira. Ha detto che in fondo l'esonero ci sta. No, perché non ha internet. Non ho detto che ne sono, ci sta. C'è ho anche Paolo Condò numeri... collegato. Buongiorno a tutti, che bella compagnia. Buongiorno. Come va? Benissimo, benissimo. Fatto anche il sorteggio di Europa League, quindi siamo al top, come dice un vostro. Non benissimo, siamo al top. Che adesso mi chiamiamo anche Parenzo. E da dove partiamo? Da Ranieri. Partiamo da Ranieri. Che dici, Paolo? È una vergogna, come hanno scritto alcuni. Non mi spingo a definire una vergogna, è una cosa che abbiamo già visto molte volte. Io non parlo nemmeno di mancanza di gratitudine, perché nel calcio non esiste, non me ne sono accorto ieri sera. Secondo me Ranieri era probabilmente la persona ancora più indicata per portare fuori dalle secche il Leicester e salvarlo e magari fare ancora un turno in Champions League, quindi secondo me è tecnicamente un errore il suo esonero, però vorrei che fosse chiara, molto chiara, fin troppo chiara, una cosa che invece a volte in questa stagione ho sentito invece un po' oscurarsi, e cioè le storie sono due. Quello che ha fatto il Leicester l'anno scorso resterà scolpito per sempre. Assolutamente, certo. Nessuno lo potrà mai togliere a Ranieri, quindi non parlatemi di favola macchiata. No, è una saga che è finita così, le saghe inglesi possono anche finire così. Nessunissima macchia, secondo me la saga è finita, l'anno scorso con il gol di Hazard al Chelsea, che dava il titolo matematico all'Leicester. Lì la cosa è rimasta scolpita. Ci sono delle cose che noi raggiungiamo nella vita che qualsiasi cosa poi venga dopo, magari di più deludente, quella cosa resterà per sempre. Io nella mia vita ho scritto per la Gazzetta dello Sport una finale mondiale, Argentina-Germania nel 2014 a Rio. Qualsiasi cosa accada giornalisticamente, quello è una soddisfazione che nessuno potrà mai più togliere. Certo. Quindi tu non sei di capito. Quelle che dicono avete visto, doveva mollare l'anno scorso per, perché ma non poteva fare la lì. Sicuramente sì. Seguendo quello che dice Paolo, no, cioè, tanto quella cosa lì non gliela tocca nessuno. Sì, però avrebbe, io sono dell'idea che quello che viene dopo bene, non lo sporca. Però se ci fossimo risparmiati fatto questa stagione e questo epilogo terribile, ma l'Ester questo era l'anno scorso, questo è oggi. Quest'anno sta facendo una stagione drammaticamente negativo. Io quello che dico, tanto per essere chiari, è che noi dobbiamo mettere da una parte la nostra amicizia, la nostra simpatia personale per Ranieri, il nostro orgoglio italiano e il fatto che Ranieri ha fatto una cosa che è irripetibile, perché lo scudetto dell'Ester è come se lo vincesse il Sassuolo, l'Udinese o l'Atalanta, come lo diceva scudetto, Giovanni Bonoprina, è una cosa è come che non può esistere nel calcio. Un italiano esatto, bianco vincesse la finale. Quindi, del 100 questa metri è una parte del ragionamento. Io però dico anche che, seguendo la Premier League, insomma, questa è una squadra che viene da 5 sconfitte consecutive, che in campionato non segna da 10 ore e 10 minuti e abbiamo tolto tutti i minuti di recupero. Cioè, è facile da qui, dall'Italia, indignarsi perché vogliamo bene a Ranieri. Tra l'altro la partita contro il Siviglia, in qualche modo, ecco, è strano magari il timing, perché comunque il gol di Vardy ti dà ancora la possibilità di qualificarti. È chiaro che è una storia di poca gratitudine e che ci dimostra per l'ennesima volta quanto il calcio sia, ma non liquido, di più. Però non è che l'Ester è una, cioè non è un licenziamento senza motivo, ragazzi. Certo. È un licenziamento di una squadra che sta precipitando. Comunque, siccome non siamo vendicativi, con Giorgio De Luca qui da oggi raccogliamo le iscrizioni per la macchinata ignorante per festeggiare la retrocessione dell'Ester. Vi do già le due date. Vabbè, 21 maggio a Leicester, se è l'ultima giornata, ma se fanno un po' prima, il 13 andiamo tutti a Manchester. Sì, cioè io, Manchester però City, non vorrei e questa Leicester macchinata ignorante si fa, perché poi arrivi quei tifosi all'Ester, si scrive. All'Ester continueranno a tifare l'Ester, non è che, quindi non vorrei. Bisogna stare attenti. No, però io continuo ad essere dell'idea che, amici miei, con Ranieri in panchina, vista la situazione della squadra, io avessi dovuto scommettere, l'avrei fatto non sul panino del povero portiere del Sutton, ma sulla retrocessione dell'Ester. Posso dirvi la verità. No, è da un po' che lo dico. Secondo me il gol di Vardy al Siviglia, proprio di Vardy, che è stato, lui e Mahrez sono stati i peggiori, considerando quello che avevano fatto nella scorsa stagione, poteva essere un punto d'appoggio. Esatto, praticamente esatto. Hai toccato il fondo, da lì ti dai la spinta e riparti, anche perché secondo me nel momento drammatico magari qualche forza di quella dell'anno scorso si sarebbe tornata a galla e si sarebbero salvati. Adesso vediamo come sarà, non so chi verrà. Ci va Paolo o no? Ci va Mancini o no? No, non ci va, ha detto che non va. Io al suo posto non ci andrei mai. Infatti ha detto che non va. Adesso all'Ester deve andare un allenatore giovane che ha tutto da dimostrare, perché è un posto rischiosissimo l'Ester in questo momento, perché comunque se retrocedi resta addosso anche a te. Sì, la però di retrocesso. Se ti salvi è un salto triplo, eh? Cioè una scommessa ad alto. Ma è salvo, no, in questo momento. Se mi passate l'iperbole, hai ancora la possibilità di vincere la Champions League quest'anno, certo, con l'Ester. Certo. Ecco, questo direi potrebbe essere il vero premio, cioè la vera tentazione. Però giocare comunque la Champions League. Più in generale, al di là del destino dell'Ester, questa roba qui ci racconta, in fondo fa parte della bellezza triste del calcio, della bellezza malinconica del calcio, perché fermo restando che nessuno toglierà quella roba lì a Ranieri, nel calcio si riparte sempre da 0-0. Certo, Capello, dopo certo, aver dominato certo, il Milan, ha avuto una stagione terribile, alla fine è andato via. Cioè, Mancini è tornato all'Inter dopo le cose fantastiche che aveva fatto e non è andato altrettanto bene. Cioè, il calcio è questo, è chiaro che stavolta è all'ennesima potenza e quindi stride da morire la differenza fra il trionfo fra l'esito e il fracasso, no? Fra però il trionfo e il fallimento. Sì. Calcio è la cosa. Sono convinto del fatto che la soluzione ideale sarebbe stata quella di salutare tutti con la corona in testa e andare via l'anno scorso. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo subito. Convocati. Tutti convocati. Allora, io ho un accordo con Paolo Condò, devo liberarlo tra un minuto e mezzo. Volevo una battuta sulla vicenda Bonucci, Allegri, Juventus. Paolo, oggi poi le sentiamo le parole di Allegri, che ha detto: adesso tutto è finito. Tutto è rientrato, Bonucci torna a far parte della rosa, però sappiamo che la vicenda è proseguita anche il sabato, non solo il venerdì, e che ci sarebbe, uso un condizionale quasi inutile, stata una frase di Allegri: o va in tribuna a Porto oppure io me ne vado. No, allora, che la rottura tra i due, stiamo parlando di due professionisti, non ho nessun dubbio sul fatto che la storia sia finita, nel senso che adesso, pur non sopportandosi l'un l'altro vicendevolmente, questo è ormai abbastanza chiaro, ognuno dei due farà il massimo per i successi della Juventus. È chiaro che questa situazione non potrà proseguire fino oltre la fine di questa stagione, uno dei due dovrà andare via. E, avevo già detto, proprio quando è scoppiato il caso, io sapevo che Allegri era molto steccato, perché la società, nelle precedenti situazioni di Bala, Mandzukic, Khedira, così via, non aveva preso dei provvedimenti nei confronti dei giocatori. Ora, ovviamente non ero lì, quindi non posso sapere se ha minacciato le dimissioni, però certamente è stato lui a prendere la decisione di mandarlo in tribuna. Cioè, non è stata una cosa, è stata poi concordata con la società naturalmente, però è stato lui a prendere la decisione, perché anche in quel caso aveva visto che la società non si stava muovendo nel modo in cui lui avrebbe voluto. Grazie Paolo. Ciao a tutti. Ti libero, grazie. Thanks a lot. Allora, sentiamo queste parole di Allegri di oggi, poi ne discutiamo. Ma il caso è già stato chiuso quando, insieme alla società, insieme al presidente, perché poi prima ho parlato con, sabato mattina ho parlato con Marotta, Paratici e Nedved, e poi sono stato a cena col presidente, e tutti insieme abbiamo concordato una linea che mi sembrava normale, soprattutto anche nelle regole e nella disciplina che la Juventus ha sempre avuto. Con grande rispetto di Leo, che è un giocatore straordinario, ha giocato Barzagli e Chiellini, quindi voglio dire, non è che siamo andati, e Leo poteva star fuori anche per una scelta tecnica mercoledì. Questa la raccontiamo a qualcun altro, questa la raccontiamo, questa invece è la frase secondo me clou della conferenza. Eh beh sì, perché la Juve ha 5 grandi difensori centrali e da quando ha cambiato modulo ha un posto in meno per i difensori centrali. Questo è un fatto matematico, oggettivo, perché l'unico che può andare a fare l'esterno, vabbè sì, Barzagli può fare l'esterno a destra, Chiellini a sinistra, ma sono soluzioni ovviamente così velleitarie, residuali, per cui di fatto c'è la perdita di un posto. E quindi sì, ci può stare anche Bonucci non sta fuori per scelta tecnica. No, e certo, non sarebbe mai stato fuori per scelta tecnica. Però voglio dirti, Porto, l'unico rischio, avrebbe giocato titolare. Avrebbe giocato titolare, sì. L'unico rischio però di natura era di natura fisica, nel senso che Chiellini e Barzagli tutti e due trovavano dagli infortuni, ma evidentemente stavano bene e hanno dimostrato in una partita oggettivamente non difficile, perché soprattutto dopo l'espulsione il Porto praticamente non ha mai attaccato. Sì. Però insomma comunque se la sono cavata normalmente, tranquillamente. Quindi secondo me in queste parole di Allegri c'è un chiaro messaggio. Rugani per esempio, secondo me oggi è in formissima, cioè, l'ultima volta che l'abbiamo visto, e ultimamente gioca pochissimo, ed era uno veramente in grandissima condizione. Quindi secondo me stiamo parlando di una... Però vi faccio una domanda tecnica. Sì. Allora, tu dici non c'è problema, la Juventus, c'è anche Benatia che peraltro non gioca mai, però Bonucci è l'unico giocatore ad avere quelle caratteristiche così importanti per il calcio moderno del difensore che imposta e che ha lanciato. Ma io aggiungo un'altra cosa. Sì, ma l'ha fatto Bonucci, l'altro giorno. Bonucci è l'anello di congiunzione tra la vecchia guardia, Rugani e quelli che arriveranno, perché anche anagraficamente lui è il leader designato della difesa dei prossimi 5 anni della Juventus. Quindi io non credo ci sia un problema tecnico. Secondo me la notizia oggi è che Allegri non ha smentito, quindi di fatto ha confermato tutte le ricostruzioni. Certo. E non è una cosa da poco, no, perché no. Un allenatore che arriva a porre la questione di fiducia, le dimissioni sul tavolo per una questione disciplinare, vuol dire che c'è un pregresso e ci sta raccontando forse anche come andrà a finire. Sì, e secondo me nella giornata di ieri, piuttosto avventurosa dal punto di vista, diciamo, dell'aviazione per la Juve, probabilmente è avvenuto questo chiarimento che l'altro ieri sera, secondo me, non era ancora assolutamente pronto, maturo, certo. E quindi Bonucci torna ovviamente a disposizione, molto probabilmente partirà a titolare, però anche qui ci sono due partite adesso, perché per esempio domani non gioca Buffon, gioca Neto, quindi è più importante che giochi contro l'Empoli o che giochi contro il Napoli in Coppa Italia? Non lo so, insomma, magari gioca tutte e due, però insomma io credo che il dato politico è che Allegri è uscito alla grande, è proprio uscito vincitore in fuga con le braccia alzate verso il cielo da questa vicenda, nel senso che si è preso un rischio e questo rischio alla fine è stato calcolato, lo ha premiato, ha vinto lui. Lo vediamo premesso inizio giugno. Che poi, cioè, poi si vince tutti insieme, nel senso che Allegri ha fatto una mossa per 3 mesi, ha fatto la mossa per avere le migliori condizioni sue da qui alla fine della stagione, certo. Poi è evidente che non esiste una prospettiva oltre, perché tu non puoi arrivare a un punto di rottura così. Guarda, e pensare di continuare a ragionare fra persone, su no, fra persone no. intelligenti, se sarà arrivato a Cardiff, se sarà arrivato. No, ma credo l'altro anche con la società. L'altro giorno, ma con la società l'ha appoggiato in questa cosa. Sì, però essere messi con le spalle al muro e poi passano 4 giorni. Da venerdì sera a quando si scopre tutto, passano 4 giorni. È evidente che c'è un lavoro di mediazione, c'è un lavoro di tessitura. Ma secondo voi Mourinho era uno facile da gestire? Per il no, club, ma difatti Mourinho sta 2 anni e poi va via. Perché se ne vuole andare lui, ma non perché Moratti lo voleva cacciare dopo aver vinto il triplete. Ragazzi, gli allenatori di personalità, Capello è uno, secondo voi, che non ha fatto cose del genere nella sua carriera? Ne avrà gestite a migliaia e su questo ha costruito la sua straordinaria credibilità, la sua straordinaria forza. Cioè a me sembra un Allegri rafforzatissimo da questa vicenda qui. Mi sembra che la Juve, da quello che so e da quello che mi sembra evidente, sia pubblicamente che privatamente, lo abbia sostenuto appoggiato, al 100%. Certo. E basta. E poi Bonucci è un ragazzo intelligente, il chiarimento ci sarà stato, se servirà ce ne saranno altri. Tacchinardi l'altra sera su Premium raccontava appunto il famoso litigio fra Vieri e Lippi, che si concluse dopo che erano venuti corpo a corpo, faccia a faccia nell'allenamento, si è concluso la sera stessa in un ristorante con Vieri che appoggia le sue manone sulla schiena di Lippi e si abbracciano e si chiariscono. Deve succedere la stessa cosa, probabilmente è già successa. E Bonucci è un ragazzo intelligente, quindi non è che non si renda conto di tutto questo. Oppure si va avanti così, oppure Allegri cambierà aria, oppure Bonucci cambierà aria, oppure scenari da definire. Io resto convinto del fatto che questa sia l'ultima stagione di Allegri alla Juve. Ma la Fiorentina, ragazzi, ma vogliamo parlarne? Vogliamo parlare del suicidio sportivo perfetto. Cioè, vinci 1-0, spiegamelo. Vinci 1-0 a Manchester United. Non lo so, è stata una cosa. Stai vincendo 2-0 in casa e in 16 minuti prendi 4 gol. È una cosa, forse neanche farlo apposta, o no? Sì, ragazzi, che vi devo dire. Tra l'altro, era una partita importantissima. Perché lo si diceva, ormai la Fiorentina rimaneva essenzialmente dopo la sconfitta di Milano solo l'Europa League come prospettiva, si era messa bene, insomma vuol dire che ci sono dei limiti tecnici, dei limiti caratteriali, è vero che ci sono tanti giovani, ma non è che non ci fossero i giovani del Borussia Mönchengladbach, forse le pressioni, non lo so, anche l'allenatore forse poteva gestirla meglio. No. Anche l'allenatore poteva gestirla meglio. Secondo voi si è giocata la Juve ieri sera, Paolo Sosa? Non lo so, io penso che nella Juve ci sia un allenatore che si chiama Massimiliano Allegri e non vedo nessun motivo per cambiare. Tu fai l'aziendalista. Ma che aziendalista faccio? Ma voglio dire, se Allegri andrà via, come si dice in giro, ma c'è un contratto di 1 anno e mezzo, se Allegri andrà via sicuramente la Juve dovrà trovare delle soluzioni. Però serate come quella di ieri possono pesare in una valutazione. Ma sì, ma quando una squadra si squaglia così. Il bilancio di Sosa di 1 anno e mezzo è un bilancio discreto. Anche se l'ultimo allenatore, quello attuale della Juve, andò via dal Milan dopo aver preso 4 gol in mezz'ora. Sì, vabbè, ma lì è un'altra storia già scritta peraltro. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Intanto 2 secondi al volo, l'imponderabile della Fiorentina. Io sono milanista, l'ho vissuto a Istanbul, quindi succede, alle volte succede. In un'occasione vagamente più importante, sì, sì. Più importante. Due secondi velocissimi su Ranieri. Io trovo che Ranieri, con tutto il rispetto umano, sia l'unico responsabile di questo, perché i miracoli si chiamano miracoli perché sono irripetibili. Non possono più ripetersi. Il Verona di Bagnoli ce lo insegna. Quindi Ranieri si è trovato che è un buonissimo allenatore, probabilmente personalmente penso si sia pensato più grande di quello che era. I suoi giocatori dalla Skoda sono passati alla Bentley in un 6 mesi, si sono immaginati qualcosa di più, ma forse Ranieri doveva capire che sarebbe rimasto ugualmente, come rimane comunque sugli annali, nei libri di storia, tutto bellissimo. Doveva salutare tutti quanti, capire, sarebbe rimasto un grande. Ed è evidente che sarebbe successo quello che è successo. Beh, evidente, ma non, magari non a questi livelli, ma io sono, in linea di massima sono d'accordo con quanto dice lei. C'è stato anche un rinnovo di un contratto. Cioè io, 5 milioni fino al 2020. Ecco, insomma, io sono laico. Cioè, se io faccio tiki-taka per un po' di anni e poi mi propongo un rinnovo di un contratto, so... E magari mi danno anche, magari, anzi, lancio questa proposta, amici di Mediaset. Magari mi danno anche un aumento perché il programma va bene. E poi l'anno dopo però si ricomincia. Cioè non è che, detto questo, ha ragionissima Paolo, l'impresa che ha compiuto Ranieri non ha uguali. Ha fatto una cosa che non farà nessuno, perché nessun altro nei prossimi anni, col calcio moderno, con i budget che ci sono, con le differenze che ci sono, vincerà il campionato con una provinciale. Perché l'Ester è una provinciale. Quindi ha fatto una roba incredibile. Però se guardiamo il campionato inglese, ce lo dicevamo fino all'altro ieri, fino a ieri pomeriggio, diciamo, speriamo che si salvi Ranieri perché tira una riaccia, e questa è la verità. E quindi questo dirigente, oltre ad aver dato 5 anni di contratto a Ranieri, poi a un certo punto avrà deciso, e forse questo è l'aspetto più sconcertante, pare di concerto con i senatori della squadra, cioè i suoi grandi alleati dell'anno scorso. Ma d'altra parte, scusa Pier, Ranieri l'aveva detto, se i giocatori non mi vogliono più devono fare una cosa sola, andare in società e dire con lui non ci stiamo più. Evidentemente hanno fatto questo. Sì, io la leggo, Io lo trovo, cioè, ribadisco, dobbiamo, è un fatto di, secondo me, di onestà intellettuale, dobbiamo dividere il dispiacere umano, che è enorme, chiaro, da, il dispiacere per l'amico, perché per molti di noi è inutile nasconderci, Ranieri è un amico, è un ambasciatore dell'Italia nel mondo, gli vogliamo bene, ci ha fatto piangere, ci ha fatto emozionare. Dobbiamo distinguere questo aspetto qui dalla valutazione razionale di quella che è la classifica dell'Ester, il momento dell'Ester. Non è un esonero così improbabile. Cioè tanto che io arrivo a dire un nono in classifica. Cioè, arrivo a dirti che secondo me il Leicester con Ranieri sarebbe retrocesso. E non lo so. Io penso di no. Perché credo. Non avremo la controprova. Manca la controprova. Credo che questa squadra, in qualche modo, l'ha dimostrato in Champions League. E me lo diceva lo stesso Ranieri a ottobre, quando ci siamo visti a Monte Carlo per il Golden Foot. Questa squadra dava la sensazione di essere ancora molto reattiva nelle grandi partite, quindi in Champions League, dove non a caso ha fatto bene fino a questo momento, più in difficoltà nella quotidianità del campionato. Ora, il fatto che fosse realmente invischiata adesso nella zona di retrocessione probabilmente l'avrebbe portata a tornare a giocare delle finali, delle partite con quel livello di adrenalina, quindi io mi aspettavo una svolta. Dispiace che non ci sarà più Ranieri, questo dispiace a tutti. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo a parlare di questo e di altre cose. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. arrivano un sacco di messaggi, anche un sacco di ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, messaggi SMS WhatsApp. Giovanni Capuano, leggo il messaggio di Dino, e Pierluigi Pardo è qui con noi, che ecco, è interessante perché è un'altra angolatura. Ha scritto: quest'anno Ranieri ogni lunedì sera era in giro per l'Europa a ritirare un premio, compreso quello di miglior allenatore del mondo della FIFA. Troppi premi e pochi allenamenti. Io non credo pochi allenamenti, però magari anche da parte di Ranieri può esserci il sospetto che ci sia stato un po' di distrazione. Io ho anche un altro messaggio: no stadio Roma uguale suicidio Fiorentina ieri. Siamo curiosi di capire cosa succederà oggi. Sindaco Raggi è ricoverato per un malore, alcune fonti continuano a dire che sarà parteciperà a questo incontro, altri no, ed è la cosa più probabile, ma poi faremo chiarezza perché lì è tutto un gran casino, se mi permettete. Gianni Di Marzio è il... Posso dire, Gianni, il papà calcistico di Ranieri? Spirituale anche. Forse no. No, però... non sto parlando di età, sto parlando di... Diciamo che stai ad Allegri quanto Galeone stai a Ranieri quanto Galeone sta ad Allegri, l'ispiratore, il maestro. Certo, ma sicuramente ho cercato di indirizzarlo a fare allenatore perché già con me era un allenatore in campo e quindi ho avuto, diciamo, quantomeno la soddisfazione di non essermi sbagliato, nel senso che Ranieri ha dimostrato, oltre ad essere un uomo vero, un uomo serio, ha dimostrato anche negli anni poi di essere un allenatore, diciamo, di rispetto, perché non a caso uno può allenare in Italia Fiorentina, Juventus, per dire Inter, oppure sull'estero Chelsea, Atletico Madrid, Valencia, riuscire a vincere anche qualche campionato, come in Italia vince con il Cagliari, Coppa Italia, il campionato di Serie C, di Serie B, delle Supercoppe. Quindi, ma al di là di tutto, Ranieri, devo dire il mio piacere, la mia soddisfazione, che non mi sono sbagliato non solo sull'allenatore ma sull'uomo. Assolutamente. Senti, a proposito dell'uomo, l'hai sentito? Ti usiamo un po' da reporter. Hai avuto modo di parlarci in queste ore? No, tu sai, io ho un buon contatto con lui, c'ho un buon rapporto, per cui sono stato anche a fare l'ultimo dell'anno da lui a casa sua. Certo, mi sono sentito in questi giorni precedentemente, adesso. Certo, lui non si aspettava perché era troppo legato a questa squadra, aveva sposato questo progetto, questa causa, e quindi la voleva portare fino in fondo. E d'altra parte, obiettivamente, dopo il 2-1, un risultato che certamente era anche ribaltabile in casa, non ci aspettavamo nessuno, che forse potevamo aspettarci qualcosa dopo tutte quelle sconfitte in campionato. E comunque, secondo me, a prescindere che ormai non mi meraviglio più niente nel calcio, non c'è mai stata riconoscenza, ma non solo nel calcio, neppure gratitudine, ma nella vita, dico proprio, è stato un esonero indegno. Ma che spiegazione si può dare a una differenza di rendimento così grande, al di là del fatto che il Leicester ovviamente non è una squadra da scudetto, cioè l'eccezione e l'impresa Claudio l'ha fatta l'anno scorso ed è stata meravigliosa, ma quest'anno, però, dubbiamente nemmeno che sia in quella posizione di classifica, cioè è una squadra da metà classifica, forse anche qualcosa in più. Come si spiega? L'obiettivo dichiarato era arrivare tra le prime 10, dichiarato da Ranieri all'inizio della stagione. Però poteva essere realistico. Aggiungo alla domanda di Pierluigi, Gianni, è stato fatto fuori dallo spogliatoio, no? Non ci sono dubbi su questo? No, ci sono dei dubbi, perché Ranieri non mi risulta che sia un allenatore che si mette lo spogliatoio contro, nel senso che sta lì a creare problemi. Lui, quando porto un esempio lampante su tutti, quando era a Valencia ha dovuto buttare fuori, per esempio, Romario, lo ha fatto. Quando alla Roma, che era in lotta per vincere lo scudetto in un famoso derby con la Lazio, ha cambiato Totti e De Rossi contemporaneamente, se avesse perso la partita stava ancora chiuso lì al Colosseo. Questa è la verità. Invece lui non ha mai avuto dubbi su nessuno. Forse devo dire che li ha fatti, non lo so, con la mentalità tipica nostra italiana, può essere stato un po' rigido nei confronti del gruppo, ma non credo neppure, dopo una vittoria così strabiliante che lo ha reso noto in tutto il mondo, è stata veramente una favola, tanto per non usare i soliti termini che sono ormai di uso per tutti, non ci aspettavamo nessuno. Se pensi, notizia proprio di qualche minuto fa, che addirittura il presidente ha dovuto togliere proprio il suo nome da Instagram perché ha avuto insulti da tutto il mondo. Ha capito che spogliatoi giocatori si trovano da fare, certo non è la squadra dell'anno scorso, perché c'è stato troppo un rendimento completamente diverso proprio agli estremi, da vincere la Premier e a non rendere proprio, perché altrimenti sì, ci aspettavamo un rendimento di una squadra che poteva fare un centro classifica, due sconfitte, un pareggio, una vittoria, perde, certo. Vuol dire proprio o gli ha tarato il cervello ai giocatori. I giocatori si sono tarati il cervello perché si sono così montati la testa o hanno volato così in alto da poi cadere senza paracadute. Questa è l'idea, questa è l'idea lui, che abbiamo fatto. Al netto di tutta l'ingratitudine, di tutta la rabbia che abbiamo addosso, tu che ci parli spesso, c'è qualcosa che si rimprovera per questa stagione? C'è qualcosa che non ha funzionato? Ma non lo so, forse è andato in qualche giocatore importante, poteva arrivare qualche altro giocatore, ma lui non è mai stato manager all'inglese, ecco, questo può essere una notizia, Pier, che tu poi lo sai, perché lo conoscete benissimo anche voi. Non è quell'allenatore che dice ok, adesso ho vinto la Premier, mi dovete comprare questi 2, 3, 4 giocatori importanti di un certo livello, bisogna spendere una certa cifra perché poi siamo in Champions, eccetera, eccetera. No, lui non dà neppure dato indicazioni, è un po' l'allenatore ancora all'italiana, questo è una verità, è sotto gli occhi di tutti. Ecco, forse questa sarà stata la vera incognita del progetto, però a perdere troppo partite in casa, anche i giocatori sarebbero potuti dare anche loro una regolata. Io ho visto più di una partita e devo dire che forse hanno voluto dare troppo, ecco, andrei un po' agli eccessi, sì, guarda. Hanno voluto strafare. Io ho visto per esempio delle ripartenze che parte accompagnato da altri 2 o 3 sugli esterni a gestire la palla per mandarla a rete come faceva l'anno scorso, andare sulla sicurezza del passaggio della traiettoria, ha tentato anche dei tiri impossibili. Ma guarda, le dinamiche cominciano ad essere piuttosto chiare. Grazie Gianni, grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Gianni Di Marzio. Le dinamiche sono abbastanza chiare. Cioè, in situazioni come questa, o va via l'allenatore o rivoluzione la squadra, secondo me. Sì. Poi è tutto molto difficile, però ha alcuni punti di contatto con il triplete dell'Inter di Mourinho. Lì andò via l'allenatore sulla vetta del mondo, come molti altri hanno fatto dopo aver vinto, ma è stato un errore aver raggiunto l'apice, no? Sì, ha raggiunto l'apice, poi insomma io non mi permetto di giudicare. È chiaro che di fronte a un contratto importante e strameritato, perché non c'era cifra per quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso, ci sia stata la voglia di estendere il rapporto, sì, la voglia di continuare. Magari avrebbe voluto prendere anche da un'altra parte quei soldi. Ti ricordi che noi abbiamo fatto, l'avevamo anche non proposto noi, ma comunque considerato e tra virgolette endorsato come possibile CT della nazionale italiana, certo, no? Poteva essere certo. Una scelta, cioè di ipotesi ce n'erano tante. Lui ha fatto una scelta un credo po' di... gli sia stato anche chiesto, ecco, ha fatto una scelta un po' di cuore e un po' anche giustamente di prospettiva, ma sì, comunque, ma non credo neanche tanto economica, perché poi ma sì, avrebbe monetizzato anche da altre parti. Ranieri il mercato ce l'aveva l'anno scorso, se decideva di io contesto questa idea che se uno vince deve andarsene, cioè si può anche vincere, restare io non credo che sia una vergogna, non ce la faccio ad accodarmi, perché io credo che se ci mettiamo nei panni dell'Ester oggi, cioè di una squadra di calcio che comunque ha un suo presente, ha una sua stagione, e questa stagione per una serie di motivi sta andando malissimo, perché è una squadra in caduta libera, cioè non è che se guardi i numeri della Premier League ti rendi conto che è una squadra in caduta libera. Allora la scelta ci può stare, certo è una scelta che stride con quello che è successo l'anno scorso, ma rimango dell'idea di Spalletti, di Condò, di mille persone che hanno parlato dello stesso dello stesso Mancini, dello stesso Mourinho, che quello che ha fatto l'anno scorso è talmente grande, talmente irripetibile, che non glielo toglie nessuno. Sì, però puoi pagare la gratitudine con una retrocessione. Io da questo punto di vista sono d'accordo con te. No, calcisticamente cioè, no. Cioè, sono grato fino in fondo, vado, esatto, vado allora, una serie il tema è, inferiore. Il tema è il licenziamento si giustifica se, come pare, può essere successo, quelli che contano nello spogliatoio sono andati dalla società e hanno detto con lui non ci stiamo più. Ed è la cosa tra virgolette più schifosa, perché sono certo. I suoi fedelissimi che l'hanno. E allora a quel punto metti la società a spalle al muro, sai che con lui vai giù certamente e senza di lui magari hai qualche chance. Altrimenti te l'ha detto Paolo Condò all'inizio. Non c'è scritto da nessuna parte che Ranieri non fosse l'uomo comunque capace di mantenere almeno questa posizione, che oggi è il quart'ultimo posto. Poi vediamo, capito, cosa sarà. Guarda, la tendenza diciamo, è drammatica. Ma, ragazzi, un attimo di pazienza, traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Saggio di Domenico che mi fa sorridere. Oggi tutti sono indignati per un disoccupato da 5 milioni l'anno. Per fortuna siete la radio di Confindustria. Vabbè. No, io non sono indignato, io sono triste. Non so, sì, mi spiace moltissimo a tutti noi, ma ci mancherebbe altro. Conoscendolo mi spiace in maniera doppia. Luca, non sono indignato. Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Dica. Mi sentite? Sì. Forte, salve, ciao. Allora, innanzitutto, trasmissione bellissima, la migliore che c'è in Italia. Ma nettamente, ma guarda, posso dire, stavo pensando esattamente la stessa, proprio la migliore. Fondo una porta aperta. Questo era incredibile. No, niente, brevissimamente, allora, no, diciamo, ma torniamo sul tema della trasmissione. Scherzo, scusa. Ok, allora continuo col tema. No, dai. No, volevo dire brevemente, diciamo, dunque, ieri stavo ascoltando la trasmissione, la parte quella sullo stadio della Roma, e avevate chiamato quel giornalista del Corriere, tra l'altro molto preparato, che ho ascoltato molto volentieri. Esatto. E niente, quindi ero lì che proprio in sovrappensiero, ero in macchina, stavo andando a lavorare, quindi faccio che belli spunti anche di riflessione, perché diciamo sinceramente è una, come si dice, una questione dove ci sono più dubbi che certezze in questo momento, no? E ognuno va avanti in questa grotta di oscurità con l'accendino quasi, no? Per farsi un'opinione. E da lì invece arriva, io non voglio parlare di politica, e arriva proprio il grillino prototipo zero, cioè che si è presentato come il cittadino informato. Che quindi è proprio, cioè, la loro, loro punto di vista. Non è che devi sfottere quello che ha chiamato ieri, quello che ha le sue idee esattamente come tu e le tue. Anzi, allora io chiamarmi, ci mancherebbe altro. No, Luca, allora io tengo a precisare, anche perché ho ricevuto un sacco di email, eccetera, di protesta, ma poi quando si sfocia sul calcio e la politica ci scuotono dentro. Io ieri ho dovuto dare poco spazio all'ascoltatore, do anche una ragione tecnica, perché avevo un appuntamento con Giorgio Terruzzi per parlare di Formula 1 che avevo rimandato il giorno prima, ed ero certo che comunque sull'argomento Stadio Roma saremmo tornati, anzi magari lo faremo anche adesso alle 3:15, ne riparliamo. Sì? Sì. Sì, abbiamo appuntamenti. Sì, perché c'è De Luca che mi guarda. Sì, abbiamo appuntamenti da confermare. Alle 3:15. Confermato. No, e comunque adesso io l'ascoltatore di ieri non l'ho sentito. È chiaro che. No, che stava spiegando come. No, ma i dubbi sono mille. I dubbi sono mille, la situazione è complicatissima. Io dico solo una cosa: che questo è un paese dove è tutto difficile. Cioè, questo è un progetto che nasce nel 2012, viene identificata un'area con una giunta, che era quella di centrodestra. Poi il progetto va avanti, nel 2014 arriva una nuova giunta, cioè c'è una nuova giunta che dà l'ok definitivo. È un progetto completamente a carico di privati, con opere pubbliche fatte dai privati. Nel 2017, con la terza giunta diversa, con l'intendenza, la cosa si ferma. Forse è anche giusto fermarla, però capisci che è finita. Non arrivi da nessuna parte. L'Italia è finita, perché in un paese dove tu cominci un progetto, spendi dei soldi, vai avanti, questo progetto ti viene approvato, non ti viene bocciato, e poi due anni dopo arriva qualcun altro che io sono sicuro, in assoluta buona fede, non ho dubbi, cioè non voglio mettere in discussione il pensiero che possono avere. Poi il pensiero della Raggi non l'ho capito, perché ci sono dei giorni in cui sembrano a favore, dei giorni in cui sono contrari, ma è sicuramente complicatissimo. E io non sono detto, è intervenuto Grillo e ha stoppato il progetto, e Roncone ha anche detto una cosa molto forte per questioni di cioè, io fossi stato la Raggi mi sarei dimesso politica, un minuto dopo. Sì, però noi non facciamo né politica né facciamo, però capisci, i tecnici che, di cioè, questa secondo cosa me c'è qua. Un passaggio di quello che dice Pallotta in quel famoso tweet, dove è chiaro che gli rode parecchio, che dice questa roba è una tragedia per i futuri investimenti in Italia. Ora lo dice perché gli rode, però è anche vero. Perché qual è l'imprenditore straniero o anche l'imprenditore italiano che può avere voglia di investire, in questo caso 1.700 milioni di euro, in un'opera che poi va avanti per 5 anni, arriva uno nuovo e questo qui te la blocca. Io dico una cosa. Per i motivi più legittimi del mondo, sia ben chiaro, ripeto, io non sono un esperto di urbanistica e non so se fidarvi da una parte o dall'altra. Cioè, questo rimane un dibattito aperto, però capisci che l'Italia è finita, non può fare più niente. Io dico una cosa, il calcio è una delle prime 10 industrie in Italia, è evidente che ha bisogno di fare qualcosa per crescere come competitività, o accettiamo come all'estero, perché è successo in Spagna, è successo in Inghilterra, è successo in Francia, dove i soldi sono stati spesso pubblici perché ci sono stati grandi appuntamenti, o accettiamo anche qualche compromesso per dare la possibilità al calcio di infrastrutturarsi, oppure diciamo che non si fa, però poi non ci lamentiamo se il gap con gli altri finito tutto. Il gap è già enorme. Lo stadio serve, non c'è nessun dubbio. Alla Roma serve, così come serve poi serve a Lazio, tutte magari le altre, andarsi, serve pure andarsi a tutte le altre, non ci sono dubbi. Le società di calcio debbono patrimonializzare, cioè devono riuscire ad accrescere la propria forza al di là dei proventi dei diritti televisivi o di tutto il resto, insomma. Ragazzi, è il momento, teniamo il timing perché sennò sì. Esondiamo. Meglio di no. Allora, questo è il momento della schedina, sfida diretta. Facciamola dopo la schedina, dai, ci sono gli ascoltatori. Vuoi farla dopo? Tiseriamola, ci sono due ascoltatori. Lorenzo da Lodi, Lorenzo. Vabbè, allora Lorenzo da Lodi, come vuoi tu? Fatto, sto qua io. Vabbè, Lorenzo, dica. Salve. Senta, una considerazione, volevo sapere cosa ne pensate sulla Fiorentina, ma non è per il risultato di ieri, è un po' per l'andamento che ha in questi ultimi 2 o 3 anni, soprattutto però quest'anno, che forse Allegri non aveva proprio torto quando ha detto questi sputano sangue solo con noi. Io che sono simpatizzante della Fiorentina posso dire, quindi vedo le partite, posso dire che in questi ultimi anni quando viene la Juventus in questo stadio, io giocatori così indemoniati sotto l'aspetto agonistico, chiaramente parlo dell'aspetto bello del calcio, non l'ho mai visto da nessun'altra parte. Detto questo, penso che Sosa sia il prossimo candidato a lasciare la panchina. Questo lo sappiamo da un pezzo. È più interessante invece l'appunto che ha fatto prima Giovanni Capuano, ma siamo sicuri che adesso la Juventus, perché l'abbiamo visto papabilissimo per la panchina della Juventus del dopo Allegri, se ci sarà un dopo Allegri, tutto questo lo scriverà la storia. Siamo sicuri che dopo questa stagione alla Fiorentina la Juventus non venga in mente di cambiare idea, faccia le valutazioni. Ma io non sono così convinto della Juve abbia un'idea Paolo Sosa, No? Ma no, mi sembra Paolo Sosa ha fatto, allora analizziamo, ha fatto delle cose ottime nei primi 4 mesi dell'anno scorso. Sì. È un grande ex, ha sicuramente il physique du rôle per eventualmente andare piace su quella panchina. Piace ai tifosi. Sì, piace ai tifosi, ma poi alla fine la scelta della società, altrimenti la Juve non avrebbe mai preso Allegri. No, è chiaro. Ci fermiamo. Tanto poi schedina, stadio della Roma, Ferrari, Leo Torrini, Carosello. Ciao. Tutti convocati. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dei dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Capuano e Pardo qui con me in studio oggi per questo super venerdì. Stadio della Roma. Proprio lui, ma subito Pupo, eccezionale, come va? Ciao Pierluigi, ciao a tutti. Svegliamo, che mi ha mandato un whatsappino, un messaggio dicendo sì, infierite. No, anche non parlate mai della Fiorentina, ne parlate sempre quando, capito? Hai ragione, grazie, capito? Allora evitate di parlarne sempre. Basta. Senti, ma come l'hai visto? Scusa, parliamone un attimo. Come è spiegabile? Come è spiegabile suicidarsi in questa maniera? Che non è neanche Arachiri, perché come facevano, perché quello lo facevano con onore sempre, qui invece c'è stato più il disonore anche. Diciamo che è una partita che era un po' una svolta. La Fiorentina ha mostrato un po' il limite che ha, c'è un paio di fenomeni, grandi promesse che sono Chiesa e i Bernardeschi, poi quegli altri due o tre giocatori di buon livello, e poi per il resto diventano dei fenomeni solo contro la Juve, poi diventano normali. Cioè, ecco, praticamente io credo che alla fine io dovrò lunedì andrò a vedere anche il Torino, perché vado allo stadio lunedì, perché voglio comunque farmi vedere. In questo momento io non vado quasi mai più allo stadio, ma ti collegheremo, ti collegheremo a Tiritaga, ti collego. Lunedì ci vado proprio perché c'è bisogno di comunque in questo momento difficile di far vedere che anche i tifosi per le con più popolarità ci sono, e io sono davvero deluso, ma che vuoi, una squadra che ha queste potenzialità è l'ultimo, vengono fuori. No, io volevo chiederti di Paolo Sousa, perché vabbè, appunto, insomma, c'è questa ipotesi Juve che, alla quale io non credo molto, ma insomma, che comunque continua a girare. Non penso che Paolo Sousa se ne vada, e non penso che vada alla Juve. Certo, e ci dai una notizia, se ci dici che Paolo Sousa non se ne va. Ma io penso di no, ma non è che io ho delle notizie particolari o canali, capito, privilegiati. Io ti dico quello che penso che farà, che finirà il campionato, poi insomma vediamo, insomma non credo andrà alla Juve. Penso di no. Spero di no. Comunque credo che invece Bernardeschi, Chiesa, insomma, siano giocatori che alla fine con questo tipo di politica possano in qualche modo trovare altre sistemazioni. Questo su Bernardeschi si è già detto, su Chiesa ancora no. Secondo me, Paolo Sousa o non Paolo Sousa, la cosa fondamentale sarebbe mantenere questi giocatori. Non so se la proprietà sarà in grado di farlo. Ti ringrazio, Pupo. Ciao ragazzi. Vi faccio sentire per chiudere questo discorso e poi aprirne un altro. La voce di Della Valle ieri, sconcertato. Un quarto d'ora di shock al secondo tempo, è successo. Rabbia tanto, delusione, shock vero. Pensa all'esonero di Paolo Sousa. Ha parlato Corvino prima, l'avete ascoltato in televisione, quindi non sono argomenti che a caldo ne voglio parlare io. Adesso c'è da capire come uscirne. È una partita, ripeto, che avevamo in mano. Mi spiace per i tifosi, per me, per tutti, ma pronto, queste cose, una partita così non me la ricordo da 15 anni che sono qua. Bisogna reagire perché il campionato non è chiuso. Devo ancora pensare che il sesto posto, anche se è difficile, non è così raggiungibile. Credo che sia la delusione più grande dopo la semifinale di Coppa Italia persa con la Juve, sì, dopo aver vinto l'andata, no? Sì. Che con Salah, e poi nel ritorno invece successe. Io ti dico, secondo me, insomma, l'allenatore ha dimostrato di essere un buon allenatore all'inizio dell'anno scorso, poi però da troppo tempo c'è uno scollamento, sì, enorme nelle dichiarazioni, nei rapporti, insomma. E a proposito di Chiesa e Bernardeschi, secondo me sono invece due giocatori sui quali si può anche decidere di puntare, di tenerli per qualche anno e di costruire una grande squadra, insomma una buona squadra. Davide Valsecchi, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao, allora, scuderia Ferrari 70H, che secondo Leo Turrini speriamo che vuol dire non hybrid, ma vuol dire... Hai voglia che sia la volta buona. Hai voglia, hai visto mai che sia la volta hai buona. Hai visto mai che sia la volta questa buona. Questa è la sigla comunque della Ferrari, cui è stato fatto lo spogliarello oggi. Ieri ho fatto un servizio che alcuni hanno giudicato come pruriginoso, in cui dicevo... Ciò che conta non è il vestito, che stiamo vedendo in questi giorni, il nuovo vestito delle macchine, in alcuni casi elegantissimo, conta la lingerie, ma quella non la conosciamo, cioè quello che c'è sotto. Pardo è un esperto della materia, così come Lewis, sono un esperto così di lingerie, come sì. Lewis Hamilton, che ieri ha detto che questa macchina è una belva. Al di là di questo, una Ferrari molto diversa dalla Mercedes che abbiamo visto, secondo te è un buon segno? Ah, io spero di sì. Secondo me è buono, perché nelle ultime due stagioni la Ferrari è stata in rincorsa rispetto alla Mercedes, un po' come tutti gli altri team, però dal paddock vedevamo che molto spesso portavano in pista modifiche aerodinamiche che erano più o meno simili alle idee e ai concetti delle Mercedes. Perciò era una rincorsa che alla fine non ha pagato, era giusto e forse secondo me anche una buonissima idea tentare di immaginarsi qualcosa completamente diversa e di al 100% con le proprie idee, perciò la Ferrari l'ha fatto. La macchina è bellissima, Poi dopo vediamo cosa c'è sotto per vedere come va. Vediamo la lingerie. È che quest'anno si punta tanto e Vettel ha veramente bisogno di una macchina per vincere il mondiale, per lottare, perché sennò anche un po' le motivazioni vanno un pelo calando. Sì, ma sai, la domanda banale però del fruitore della Formula 1, di quello che la guarda in televisione, magari qualche volta va al circuito, è: ma almeno quest'anno vediamo un campionato o vediamo un monologo? È una domanda da fanciullino, però è questa la verità, cioè, vorremmo vedere delle corse. La verità è che hanno cambiato i regolamenti apposta per tentare di cambiare il team di testa, nel senso ogni 3 o 4 anni cambiano i regolamenti e solitamente al cambio di regolamenti cambia il team qualcosa leader. Succede, sì. Una nota che forse non è positivissima per tutti gli appassionati tifosi Ferrari è che attenzione che il regolamento sul motore non è cambiato per nulla e che il vantaggio tecnico che aveva i motorizzati Mercedes l'anno scorso rischiano di averlo anche quest'anno, anche se hanno lasciato aperto lo sviluppo durante l'inverno. Bisogna ricordarsi che l'anno scorso la Mercedes ha finito l'anno con indubbiamente il motore più forte, sì, e quest'anno è impensabile che parta con il quinto motore in griglia, ecco. Senso, sarà ancora lì davanti. Davide Valsecchi è un pilota, ma ormai è anche un uomo di televisione. Io voglio fare a te, a Pardo, una domanda. Questa presentazione minimale che avviene solo sul web, nessuno parla. A una certa ora mandano in rete le immagini della nuova macchina, che poi portano in pista e li comincia a girare. Un tempo le presentazioni erano qualcosa di diverso, erano qualcosa di molto glamour, c'erano i giornalisti, c'erano ovviamente quelli del team, potevi fare domande, brindavi, insomma era una specie di festa. Adesso è qualcosa di asettico. Forse. A voi piace oppure no? Pardo per primo. A me se c'è il buffet piace sempre di più, però poi tanto se non mi invitano mi cambia paura, a parte le battute. No, devo dire che probabilmente è una scelta anche legata ai risultati degli ultimi anni della Ferrari che non sono stati... Ma il trend è questo. Ma adesso è tutto... È chiaro che se tu fai una diretta mondo, anche se non c'è nessuno in quella stanza, però la vedono milioni di persone. Se fai invece una conferenza stampa ci sono 200 persone che poi porteranno a tutto il mondo quell'immagine. Io penso che sia... Non lo so. Mi spiace di non essere stato invitato, ma del resto non c'è una conferenza. Non lo so, ma abituiamoci. E comunque il buffet L'abbiamo visto anche nel calcio. Sempre un valore. Piano sta cominciando a cadere questo frammento di mediazione. L'Inter ha presentato Gagliardini direttamente su Facebook, senza televisioni, senza conferenza stampa. Mettendolo lì a disposizione, sì, tra un po' tutto lo sport si trasferisce su un altro pianeta. Davide Valsecchi, vanno a giocare a correre sulla Luna e da qui ci mandano le immagini su internet, magari su Facebook. Anche io sono d'accordo. Nel senso, questa versione social che sta prendendo delle presentazioni non è che mi faccia impazzire, però dobbiamo notare che a differenza dell'anno scorso hanno presentato la vettura in pista, quelli della Ferrari, sì, come faceva il vecchio famosissimo Ferrari, perciò non vorrei che sia un buon auspicio per sognare qualcosa di importante, perché di solito negli ultimi 2 anni l'avevano presentata all'interno dell'azienda chiuso, quest'anno invece tutto il team in pista. Io dico che l'hanno fatto in una versione social, ma stile vecchi tempi. Sappiamo che si accende. Sappiamo che si accende. È partita, ha fatto alcuni giri con Raikkonen, ma questo anche la Mercedes ha fatto ieri, mi pare. Quindi si è accesa anche quella. Mi ha molto sorpreso la nuova livrea della McLaren, arancione con bordi neri, è qualcosa di inedito. Mi devo abituare, confesso. Però il contatto fisico, viva Dio, mi manca, perché a me non sono un gran fanatico di social network, Facebook e queste robe qui. Però, vabbè. Davide, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Il contatto fisico c'è nel rugby tra i giocatori. Le presentazioni e partite via web ancora non ne fanno. Giacomo Bagnasco per le formazioni di un Inghilterra-Italia domenica pomeriggio che ci fa venire i brividi perché rischiamo il cappottone. Non solo perché fa freddo. Sì, questo è vero che ci sono comunque c'è il social che sta avanzando anche nel rugby. Mannaggia loro, vabbè. Ma insomma, sai, Carlo, noi abbiamo una certa età, diciamoci la verità, lo dico per me innanzitutto, si vede che ci sono anche dei calcoli di mercato legati al fatto che probabilmente c'è un pubblico giovane che bypassa tranquillamente determinate cose, però il contatto fisico in campo c'è come e domenica rischia di essere un fattore che ci può far male come risultati, intendiamoci. L'Italia cambia 4 giocatori, nel senso che reinserisce Stein in terza linea al posto di Mbanda, cioè Campagnaro, che è stato invocato perché è un giocatore in un ottimo periodo di forma nel campionato inglese, che prende il posto di Benvenuti come secondo centro. Bisogna rientra Lala al posto di Esposito, e Allan, la cosa forse più interessante, sostituisce Canna come mediano di apertura. Ma c'è il rischio, uscendo dalla cronaca di questa partita, che ci buttino fuori dal Sei Nazioni? Il rischio, no, o allora, forse anche l'opportunità, se continuiamo a fare queste figure, scusa la provocazione. Sì, no, ma però, guarda, io condivido peraltro. Allora, il problema fondamentale, al di là degli aspetti, diciamo così, regolamentari, è che se l'Italia dovesse continuare a subire sconfitte come quelle arrivate nell'ultima parte del Sei Nazioni 2016, guarda caso in trasferta contro Galles e Irlanda, e nella prima parte del 2017 sempre con Galles e Irlanda, il problema si porrebbe per forza da un punto di vista tecnico. Detto questo, è chiaro che il discorso è stato impostato in una maniera, secondo me, non del tutto corretta, diciamo. Ecco, quando si dice gli inglesi vogliono togliere l'Italia dal Sei Nazioni, si tratta di giornali inglesi, non si tratta di federazioni, non si parla di presa di posizione ufficiale. L'Italia avrebbe diritto a stare nel Sei Nazioni almeno fino al 2024, ma il vero discorso, secondo me, è quello che ho fatto io. L'Italia si deve dare una mossa. L'Italia non deve rimanere nel Sei Nazioni perché, diciamo, esatto, per le carte bollate. Questo ripetiamo da anni. Questo il discorso. Io ho sempre detto che, cioè, l'idea di fare ad esempio un playoff fra l'ultima del Sei Nazioni e la prima del Sei Nazioni B, che andrebbe fatto ogni due anni, perché come voi sapete, un anno si giocano tre partite in casa e due fuori, l'anno dopo il contrario. Posto. Quindi sarebbe giusto fare, diciamo, un ciclo di partite di andata e ritorno, sì, e quindi sui due anni. Secondo me ci sta, è nella logica delle cose. Detto questo, è probabile che poi la squadra che dovrebbe salire, che arriva prima nel Sei Nazioni B, a un playoff probabilmente perderebbe. Però facciamolo, poi vediamo. Cioè, almeno è qualcosa di più sportivo, è qualcosa che ha maggiore logica sportiva. Grazie Giacomo, ci sentiamo domenica. Grazie. Il discorso però che volevo fare era questo. Non è che chi sostiene questo ragionamento dice che l'Italia deve uscire al Sei Nazioni o deve giocarsi il posto nel Sei Nazioni con un'altra squadra. Dice che chi arriva ultimo in classifica. Questo è chiaro. È un discorso che sportivamente elevasse il suo standard, e sportivamente sarebbe un discorso più corretto. Sentiamo domenica Giacomo, grazie. Andiamo un po' di corsa, e poi abbiamo anche la schedina, non dimentichiamolo. Andiamo da Ferdinando Magliano per capire cosa succede con Magliano. Tempo. Ciao. Del tempo, ciao. Che ciao. Succede oggi a Roma? Come va a finire questo stadio? Abbiamo la sindaca che ha avuto un malore, quindi alla quale rivolgiamo ovviamente tutti i migliori auguri, ma pare che questo sia non le dovrebbe impedire di andare all'incontro con la Roma. Incontro con la Roma e Parnasi, il costruttore, che era previsto per le 4 e che pare che stia slittando progressivamente verso le 17, forse proprio per consentire a Virginia Raggi di uscire dal San Filippo Neri e recarsi in Campidoglio. Di sicuro l'incontro è confermato, parteciperà il vice sindaco, il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito e il capogruppo dei 5 Stelle in aula Giulio Cesare, e cioè Paolo Ferrara. E da questo dovremmo capire un attimo che cosa succede, perché insomma il 3 di marzo, che è dopodomani, praticamente la conferenza di servizi si dovrebbe chiudere. Si può prolungare solo se la Roma stessa chiederà una proroga, perché le pubbliche amministrazioni l'hanno già chiesta l'ultima volta, quindi rimane solo la possibilità per la Roma di chiederla. Da quello che si capisce, se il Campidoglio non dovesse proporre un accordo fattivo, diciamo scritto e approvato dalla Giunta, la Roma non dovrebbe presentare la richiesta di proroga. E quindi se va male, come è possibile che sia male, si intende ovviamente, cioè se non si trova l'accordo, poi ognuno ovviamente su questo tema ha la sua opinione, si parla molto di una possibile richiesta di danni? Molto, si parla molto di una possibile richiesta di danni che più o meno, da quello che abbiamo ricostruito, è articolata attraverso fondamentalmente tre cause fra loro più o meno collegate, nel senso che la prima sarebbe ovviamente il ricorso al TAR, con il quale la Roma chiederebbe l'annullamento degli atti del comune che revocano la delibera di Marino, quella perché, sul perché lo stadio, lo ricordiamo, era stato approvato, no, nel 2014. Assolutamente, nel 2014 c'era stata una delibera del Consiglio Comunale, che è l'organo titolato a parlare di urbanistica, con la quale si decideva di dare il via a questo progetto. Sulla base di questo è stato presentato il progetto, tutte le carte, la conferenza di servizi, eccetera, eccetera. E adesso il discorso diventerebbe per la Roma il fatto di considerare illegittimo l'annullamento di questa delibera, che è alla base di tutto questo. Ovviamente stiamo parlando ancora per ipotesi, perché fin tanto che non sapremo cosa fa il Campidoglio e come lo articola, certo, perché tecnicamente il Campidoglio ha la facoltà di ritirare il suo pubblico interesse, ci sono previste dalla legge, ma la legge dice anche che le devi ben motivare, quindi bisognerà poi leggere le motivazioni, e quindi la Roma su quelle si attaccherà eventualmente per fare la causa. Nell'eventualità, se il TAR, se si presentasse ricorso al TAR, il TAR ovviamente annullasse l'atto con il quale il Campidoglio appunto ha cancellato il pubblico interesse, beh, è chiaro che è lì i giochi sono brutti, molto certo, brutti per il Campidoglio, perché si rischia la denuncia penale per abuso d'atti d'ufficio, il procurato ingiusto danno a un terzo, e oltretutto ovviamente c'è la causa di risarcimento in sede civile, che magari arriverà fra un po' di anni. Ma nel frattempo ricordiamo che le norme che regolano il bilancio obbligano il comune ad accantonare la cifra richiesta come risarcimento, quindi se la Roma chiede 2 miliardi e tu sul bilancio 2 miliardi devi accantonare, il problema è bello grosso. Non voglio neanche pensare a cose del genere. Neanche io. Una parte gliele devi dare tu, Pardo. Beh, sì, io sono tecnicamente risiedo a Milano, però non cambia la sostanza, poi alla fine... No. No, significherebbe di fatto la bancarotta del Comune di Roma. Non puoi chiuderlo in un bilancio in cui in un anno all'improvviso su circa 5 miliardi totali due ti vengono a mancare, o anche fosse uno, ma fosse anche mezzo miliardo di euro. Il Comune di Roma ha un bilancio che sta attaccato veramente con le unghie e con i denti per i centesimi. Appena se proprio sposti una virgola, basta ricordare che l'OREF, l'Organismo di Revisione Economica e Finanziaria, l'ultima volta l'ha bocciato la proposta di bilancio e ha obbligato la Giunta a rifarla, certo, perché mancavano alcuni conti. È vero che mentre litigano, in realtà ancora ieri sera, questa notte, sono proseguiti gli incontri, le trattative poi tecniche? Assolutamente per capire. Assolutamente. Perché poi magari noi assistiamo a un grande teatrino dove Pallotta fa dire che va via, vende tutti, Grillo dice che non si fa lo stadio, uno dice che fa la causa, dice che se ne frega, poi in realtà sotto stanno lavorando. Magari assolutamente sì, è chiaro che stanno lavorando, io, perché poi da tutte e due le parti esistono gli animi che vogliono, come dire, vabbè, basta, chiudiamola qui, finisce qui, e quelli che invece dicono no, ferma, sediamoci a tavolino e parliamone. Vale per tutte e due i fronti, diciamo, quindi è ovvio che ci sono i pontieri all'opera, certo. Esatto, e poi ci stanno anche i falchi che invece tendono a magari a tirare la corda, insomma. Ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie. Allora, ci resta Devo Braschedio. Nonostante la domanda di Capuano, questo disperato tentativo di rimandare, noi la ritardata di mezz'ora per studiarsela. Come quando a scuola ogni tanto c'era la professoressa che spiegava e poi interrogava e cominciavi a fare domande durante la spiegazione per traccheggiare. Ma chiaro, l'ho fatto. L'ultima volta X fra voi due. X, sì. Dai, partiamo, vai. Andiamo. Napoli-Atalanta, chi risponde prima? 1. X. Juventus-Empoli. 1. 1. Palermo-Sampdoria e Guardo Pardo. 1. 1. Com'è 1? 1. Il Palermo, se vince, va a 5 Chievo punti Pescara. Da Chievo Pescara. Chievo Pescara 1. 1. Crotone-Cagliari. 2. X. Genoa-Bologna. Genoa-Bologna io dico 1. X. Sassuolo-Milan. Tocca a te. 1. X. Inter-Roma domenica sera. X. 2. Lunedì Fiorentina-Torino. X. Tocca prima a me però. Ah, scusa. Vabbè, X. Sempre X metto. Ok. Il notaio Giorgio De Luca che ha preso. Che casino, ragazzi, questa giornata. Che De Luca fa. De Luca fa cenno di no. Attenzione. De Luca fa. Come hai detto? Ah, Lazio Udinese. Abbiamo dimenticato. Lo dico io, Lazio Udinese, dico 1. 1-1-1-1-1. Abbiamo dimenticato Lazio Udinese. Attimi di panico dello studio, Giorgio De Luca. Oggi comunque ricordiamo che conduco 4-3 alla larga. Così salutiamo. L'appuntamento è domenica alle 17. dove chiameremo anche le tonnellate di persone che si sono prenotate oggi ma non siamo riusciti a fare intervenire. Una marea. Ci sarà anche Luigi Pardo, Carlo Genta. È stata una grande puntata, ma non è nulla rispetto a quello che vedremo domenica. Della miglior trasmissione in assoluto per sì, perché non ce n'è un'altra. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ragazzi, a domenica. E adesso il Falco e il Gabbiano.